Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Siracusa, 29 novembre 2010. Arrestato Ulupu, il mostro di Cassibile. Giuseppe Raeli è accusato di 5 omicidi e 4 attentati. 28 novembre. È notte. Ulupu si ferma davanti al cancello che sbarra l'accesso di fondo, smonta dal camion, apre il lucchetto e fa pochi metri prima di smontare di nuovo a chiudere. Affronta a passo d'uomo la strada sterrata, piena di buche annegata nei rovi. La mezzaluna illumina lo spiazzo davanti alla porta arrugginita del garage, seminascosto dai cespugli, parcheggia. Un attimo dopo imbocca un viottolo di fianco che porta al rudere diroccato dell'ovile. Costeggia il muro, prosegue, è arrivato. Si china, toglie la pietra, fuga nel buco, afferra il fagotto avvolto nella tela cerata e sigillato con lo scotch e torna al garage. Apre la saracinesca con la chiave appesa alla cintura e accende il lume. All'interno, mucchi di mobili, masserizie e attrezzi accatastati contro i muri, resti invenduti di anni di svuota cantina. Sullo scaffale polveroso il corredo da killer, guanti da lattice, passamontagna e due scatole di cartucce. Appeso sulla parete di fondo un bersaglio. Richiude la saracinesca. Prima di liberare il 12 semiautomatico, l'appoggia contro la spalla destra, inserisce la prima cartuccia e in pochi secondi esplode tutti i colpi. Può sparare a volontà, la masseria più vicina è a 2 chilometri. Raccoglie i bossoli, li butta dentro il secchiello di latta e va a controllare. La sagoma è centrata, l'età non gli ha guastato la vista. Ricarica e spara di nuovo. Nessuno può fregare a mia minaccia ad alta voce. Poi, placato, ripone l'arma e smuove la grossa ghiacciaia scrostata che copre la cassaforte murata nella parete. Fa la combinazione, toglie la pistola e sfoglia, rapace la prima mazzetta di 50 euro stretta da un elastico. Là c'è un bel mucchio di roba, almeno 20.000, avaro. Ammalato d'avarizia per denaro è disposto a tutto. Tira fuori di tasca 4 pezzi da 50 in contanti appallottolati, li spiana con cura e li aggiunge al malloppo. Riappoggia sopra la pistola e richiude con un sospiro. Tempo di riportare il fucile dov'era, sprangare tutto dietro di sé. Meno di un quarto d'ora dopo è per strada. Maria, sua moglie, mugola appena e si gira quando si sdraia sul letto accanto a lei. Il frenetico bussare alla porta della villetta gli sveglia. L'orologio sul comodino segna le 3:45. Si sente forte il rumore delle pale di un elicottero in volo sopra di loro. Caspetti, va a aprire, ordina la donna. Un carabiniere indiviso la scruta dalla porta. Un cane si infila in casa annusando. Saluti, signora. Chi sarebbe Giuseppe Raeli, detto Ulupu? Mio marito è. Che gli cercate? Lo dobbiamo arrestare. In 14 anni 5 persone ammazzò. Fatevi da parte. Patrizia Debiche van der Noot, in libreria con L'uomo dagli occhi glauchi, Corbaccio Editore, 295 pagine, 16,93 euro.